Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, 451 intersezioni, ritorna nel 2015, ripartiamo anzi un po' anche in anticipo rispetto ai soliti tempi radiofonici che tendono a procrastinare oltre l'Epifania che chiuderebbe tutte le feste comandate. Ecco, per noi non sono comandate, anche perché ci comandano sempre, dunque un periodo così corto è abbastanza poco per identificare una sorta di continuo controllo e comando da parte di questo caro sistema. 2015, buon 2015 ovviamente dalla voce del conduttore di stasera Elisio Scarpa. 451 intersezioni dunque riparte nel 2015 con un titolo importante, Modern Free Improvisation 2015, dato che apriamo l'anno nuovo, l'abbiamo anche denominato con la data di questo anno, che fa un po' impressione per la mia generazione, insomma, essere arrivati già al 2000 aveva lasciato qualche, insomma, perplessità e titubanze, un po' strano, straniante. 2015 ancora di più, perché effettivamente ancora oltre, moltissimi film di fantascienza oltretutto hanno giocato alla fine del secolo spesso sulla data fatidica del 2000 2010 2020, qualche film se lo ricorderà qualcuno. Ecco, 2015 siamo un po', insomma, in mezzo al guado di queste date fatidiche, che non è successo nulla di fantascientifico se non la tristezza di questo andamento globale capitalistico italiano, con un governo sempre più a destra. Tra poco ci toglieranno i diritti anche per andare al bagno durante il lavoro, dato che ormai i controlli tendono a essere sempre più nazisti nei confronti dei lavoratori. E qua mi fermo, perché insomma le notizie che hanno viaggiato nel corso di questi ultimi giorni tra vigili, autisti, chi ne ha più ne metta, mettono ovviamente a fuoco da parte del potere, non solo della troica europea ma anche della troica italiana, l'obiettivo di scardinare anche quelle minime garanzie, quei minimi diritti anche nell'ambito statale, dato che il privato ormai l'hanno completamente reso selvaggio a ogni possibilità di sfruttamento. Ecco, dopo questo piccolo inciso, ma noi siamo ottimisti per il 2015, speriamo che qualcosa succeda in maniera abbastanza dirompente, politica, non ovviamente da parti un po' avverse, ma in realtà ovviamente sul piano pseudo, diciamo così, rivoluzionario, perché è un po' dura pensare che in pochi giorni, in pochi mesi succeda una cosa del genere, ma iniziare a fare delle lotte di resistenza forse un po' più strutturate, un po' più continuative, un po' più incisive. La speranza è che possa essere così il 2015, che sia anche il più possibile partecipato dalla popolazione, che è sempre più lobotomizzata. Andiamo oltre, andiamo dentro la materia sonora di 451 intersezione, dunque Modern Free Improvisation 2015, e partiamo da un autore che è scomparso nel 2010, un grande trombettista nonché anche un ottimo pianista. Parliamo di William Robert Dixon, che è stato uno degli autori e musicisti più seminali e più importanti nell'ambito del free jazz e del jazz improvvisativo già dagli anni 60, anche se le sue produzioni si sono concentrate soprattutto, almeno personali, i progetti individuali, le prime discografie dagli anni 70 fino al 2010. In realtà stasera andiamo a pescare l'ultimo disco disco realizzato, uscito postumo nel 2011, un ottimo lavoro. Envoy, uscito per le Disques Victo, un lavoro splendido dove l'improvvisazione radicale emerge in maniera assolutamente preponderante all'interno di questo caleidoscopio di colori, di immagini, di suoni, legati ovviamente alla black music, alle sue origini, ma avendo anche la capacità di innovare, di sperimentare all'interno di questo lavoro, appunto uscito postumo nel 2011. Apriamo, diciamo così, ricordiamo anche i musicisti che hanno lavorato in questo lavoro di Dixon, l'ultimo lavoro dello stesso autore e musicista americano. Troviamo oltretutto musicisti che hanno sperimentato anche nell'ambito dell'elettronica, non solo, come Graham Haynes, Stephen Haynes, Taylor O'Brien, Glynis Loman, Ken Filiano, Michel Coffey e anche il grande Stephen Haynes e Warren Smith, non dimentichiamoci, vibrafonista e batterista nonché percussionista molto importante. Andiamoci dunque a sentire una traccia da questo ottimo lavoro In Voi, uscito nel 2011, e andiamo ad ascoltare un frammento di una traccia estremamente importante di Bill Dixon, e dunque apriamo così il nostro percorso di stasera in Modern Free Improvisation 2015. Chiaramente, come al solito, come dico io, buon ascolto. E siamo rientrati in diretta dopo questo splendido frammento di Bill Dixon, disco assolutamente da andare a riascoltare se è stato già ascoltato, di ascoltare per la prima volta se non è stato mai ascoltato, l'ultimo lavoro di questo importantissimo e straordinario artista e compositore statunitense scomparso nel 2010. E continuando il nostro viaggio in questa lettura, in questo percorso di, legato alla Modern Free Improvisation, andiamo a pescare e ad ascoltare un autore, un progetto, in questo caso un'orchestra giapponese. Dunque passiamo dagli Stati Uniti al Giappone, terra oltretutto che a me personalmente a 451 intersezioni ma anche a 451 frammenti sonori ha sempre appassionato, questo delirio sonoro, le strutture assolutamente imprevedibili, il gioco con la malattia e con dimensioni quasi orrorifiche ma anche giocose, quasi da bambini, che spesso i giapponesi riescono a rappresentare come linguaggio sonoro assolutamente originale e imprevedibile, non soltanto nell'ambito dell'improvvisazione ma anche in tutto ciò che attraversa l'elettronica e la sperimentazione in genere. È proprio questo progetto che è nato dalla compositrice, pianista, musicista Satoko Fuji, che ha costruito vari progetti collaborando spesso anche con musicisti europei nell'ambito della sperimentazione e dell'improvvisazione. Andiamo oltretutto in questa formazione a trovare una autrice che spesso a 451 ha attraversato i vari percorsi sonori di questi anni, cioè la grande Andrea Parkins, e insieme anche al trombone troviamo Curtis Assenbring, alla tromba Natsuki Tamura e chiaramente al pianoforte Satoko Fuji. Il progetto è Satoko Fuji Min Yo Ensemble, che ha fatto uscire come progetto due album, il primo nel 2008 e il secondo, proprio l'ultimo lavoro come progetto collettivo, nel 2011, ed è proprio quello che andremo ad ascoltare, ovviamente una traccia uscito per l'etichetta Libra Records. E anche qua entriamo dentro l'universo dell'improvvisazione radicale ma anche con forti accenni al free jazz e anche al jazz contemporaneo, ma in realtà anche le etichette sono abbastanza parziali per definire i lavori assolutamente geniali e imprevedibili di questo ensemble. Andiamoci dunque a ascoltare dal disco Watershed, uscito appunto nel 21 giugno del 2011, e andiamo a ascoltare la traccia Takeda no Komuryuta. Buon ascolto. E siamo ritornati in diretta dopo aver ascoltato questo brano splendido, assolutamente suggestivo, evocativo, da parte di Satoko Fuji con la sua ensemble Min Satoko Fuji Min Yo Ensemble, dall'album Watershed uscito nel 2011, e dalle terre giapponesi, anche se contaminate con musicisti europei e anche statunitensi, andiamo a pescare un autore, un musicista, anzi una coppia di straordinari musicisti della scena sia frigese che improvvisativa radicale. Troviamo Sonny Sherrock, uno dei primissimi chitarristi free jazz, che ha lavorato con autori importantissimi come Miles Davis, Pharoah Sanders, Roy Ayers, Herbie Mann, ma non soltanto, insomma tantissimi musicisti con cui ha collaborato, ma lo stesso Sonny Sherrock è stato sicuramente un autore importantissimo nella scena del free, ma anche dell'improvvisazione, insieme a un altro matto assoluto, grande sperimentatore, grande musicista e strumentista, e parliamo di Peter Brosnan, che insieme hanno fatto uscire proprio a luglio scorso, nel 2014, uno splendido album intitolato anche abbastanza provocatorio in inglese, What the Fuck Do You Want? Splendido titolo dell'album, che appunto è uscito qualche mese fa, un ottimo lavoro dove il chitarrista e il sassofonista Peter Brosnan hanno lavorato insieme anche chiaramente ad altri autori in questo progetto, e in particolar modo troviamo, oltre a Brosnan e a Sherrock, anche Friend Bisenius e Utled Brozim, musicisti che hanno lavorato insieme a questo splendido album che si muove tra free jazz e improvvisazione radicale. Ce l'andiamo a sentire, ovviamente una traccia di questo album che vi consiglio vivamente, uscito per la Trost Records, appunto etichetta austriaca, il 14 luglio 2014. Peter Brosnan, Sonny Sherrock, What the Fuck Do You Want? E siamo rientrati in diretta dopo questo delirio di fraseggi e di linguaggi che si intersecavano, quasi una sorta di discussione fra strumenti, tra musicisti, un po' tra l'arrabbiato, il vivace e il riflessivo, possiamo usare questi termini così per farci un viaggio noi di interpretazione. Il grande lavoro di Sonny Sherrock e Peter Brosnan, What the Fuck Do You Want, uscito nel 2014, qualche mese fa, a luglio. Splendido lavoro anche questo, legato all'improvvisazione radicale di questi due grandi autori. E da Sonny Sherrock e Peter Brosnan andiamo a pescare un giovane sassofonista che è stato lanciato da un altro musicista che a 451 spesso è passato a trovarci e ha attraversato vari percorsi e varie tematiche, perché è un musicista assolutamente poliedrico, pur nascendo come pianista jazz, ma si è assolutamente aperto a contaminazioni e collaborazioni straordinarie. Parliamo di Matthew Shipp. Matthew Shipp, che appunto nasce come pianista jazz, ma ha attraversato la musica contemporanea nei suoi lavori iniziati già dai primi anni 90, giovanissimo oltretutto all'epoca, e ha anche collaborato con grandi autori della scena elettronica, scena trip hop, in particolare DJ Spooky, ma anche una formazione assolutamente dirompente della scena degli anni 90, anni zero, l'Antipop Consortium, che attraversano anche i linguaggi pop. Dunque Matthew Shipp assolutamente aperto alle sperimentazioni, anche ai linguaggi nuovi, anche diciamo lontani dalle sue origini musicali, ma poi lontani fino a un certo punto, perché rimaniamo sempre dentro il linguaggio della black music, che ha diversi rivoli, diverse venature ricche appunto di sfumature, di potenzialità incredibili tuttora. Matthew Shipp, che ha appunto scoperto questo sassofonista estremamente interessante, Darius Jones, che all'inizio degli anni 10 ha iniziato a elaborare i suoi primi lavori. Prima era stato un musicista, un session man di vari altri progetti musicali, e ha lavorato ultimamente proprio con Matthew Shipp. Ha fatto uscire il primo album insieme a Matthew Shipp nel 2011, poi ha fatto uscire due album nel 2014, uno assolutamente suo, senza collaborazioni con altri attori, un altro invece ancora con Matthew Shipp, intitolato Cosmic Leader Dark Side Recital. Ed è proprio questo che andiamo a ascoltare, ovviamente una traccia di questo lavoro che si inquadra all'interno dell'improvvisazione radicale, ma anche del free jazz. E andiamo a pescare la seconda traccia, 2.327.694.748. Non mi chiedete che cosa sia, ma il titolo è proprio questo, dunque una notazione che bisognerebbe chiedere agli autori da che cosa deriva. Andiamoci dunque a ascoltare anche questi due autori da uno splendido album, Cosmic Leader Ver Dark Side Recital. E siamo rientrati in diretta, splendido anche questo lavoro, forse mi ripeto un po' con le definizioni, ma scusate, questo è il mio stile che cerco piano piano di migliorare. Dunque, lavoro assolutamente importante questo di Darius Jones, Matthew Sheep, Cosmic Leader, The Dark Side Recital, uscito nel 2014. E da Darius Jones e Matthew Sheep andiamo a pescare con la canna da pesca, proprio esattamente così, nel fiume ghiacciato, un album assolutamente fondamentale nella scena musicale sperimentale degli anni zero. In questo non a caso ho voluto affiancare questo album all'album di Matthew Sheep, altro autore che è stato capace di contaminare il suo linguaggio musicale, le sue composizioni anche con altre dimensioni sonore, rapportandosi con l'elettronica, con la contemporanea e anche con le forme più avanzate di hip hop. E andiamo a pescare proprio un album che si può collegare molto bene alla versatilità e all'apertura mentale e esistenziale di questo autore Matthew Sheep, e cioè un album importantissimo, costruito da un progetto sicuramente tra i più importanti della scena del noise e dell'elettronica rumorista e terrorista, cioè Wolf Eyes, con il grande e importantissimo Anthony Braxton, uno dei pilastri della musica improvvisativa del free jazz del Novecento e anche in questo modo negli anni zero. L'album in questione, l'album unico che hanno costruito insieme in un live del 2005, Black Vomit, uscito nel 2006 sempre per l'Ediskes Victor, etichetta canadese, dove appunto Wolf Eyes insieme a Anthony Braxton costruiscono questo live splendido, costituito da due tracce che rappresenta perfettamente l'unione di due linguaggi che possono sembrare apparentemente molto distanti, che in realtà invece sono molto vicini e riescono perfettamente ad intrecciarsi. È incredibile come l'elettronica rumorista, il noise, il terrorismo sonoro assolutamente urticante e devastante di Wolf Eyes riesca perfettamente a dialogare, a costruire un blocco sonoro unico con un maestro ormai oltretutto anche molto grande di età come Anthony Braxton, che riesce proprio a rimettersi in discussione, cosa molto rara per molti musicisti, insieme appunto a questo progetto importantissimo degli anni zero, cogliendo l'importanza di questo tipo di panorama sonoro nuovo e riuscendo perfettamente a collocarsi all'interno. Black Vomit è un disco seminale secondo me negli anni zero e continua a essere un punto di riferimento di molti sperimentatori, di molti musicisti, coniugando il linguaggio jazz nelle sue forme più aperte, come il free, come l'elettronica jazz e anche come l'improvvisazione, insieme appunto a elementi improvvisativi che però nascono dentro il linguaggio elettronico digitale, in alcuni casi anche analogico, ma sempre proiettato verso un rumorismo sonoro che è più collegabile a una certa impronta digitale, legato ovviamente a questi anni, rispetto invece a un elemento più acustico, analogico, più figlio del Novecento. Ci andiamo ad ascoltare dunque un frammento della traccia madre di questo album Black Vomit, cioè The Mangler. Ovviamente la traccia è molto lunga, ascolteremo un frammento, ma che può dare l'idea, per coloro che non lo conoscono, del valore e dell'importanza di questo splendido disco. Io ovviamente vi lascio con questo brano e chiuderemo con questo brano la trasmissione di stasera, Modern Free Improvisation 2015. 451 intersezioni ovviamente ripartirà lunedì prossimo sempre dalle 20 alle 21 e ripartirà, diciamo, la stagione 2015 anche con 451 frammenti sonori il mercoledì da mezzanotte alle 2 circa, condotto da Max Macchia, che ovviamente saluto dalla radio. Io vi auguro ancora ovviamente un grande 2015, anzi un piccolo 2015, così andiamo in controtendenza, ma un piccolo 2015 che piano piano diventerà grande, così faremo un grandissimo 2016. Mi piace questo delirio radiofonico. Benissimo, vi lascio a Wolf Eyes e Anthony Braxton e ovviamente vi ricordo sempre di andare sul nostro blog noblog 451frammentisonori.noblogs.org, dove potete riascoltare fare le trasmissioni, avere diciamo le scalette anche degli album e degli autori inseriti nelle trasmissioni, tra cui questa che verrà ovviamente inserita tra qualche giorno. Io vi auguro ovviamente una buona serata sempre con le musiche di Radio Città Fujiko. Un saluto da Elisio Scarpa e vi lascio col terrorismo sonoro di Wolf Eyes ed Anthony Braxton. Buon ascolto con Black Vomit. Thurston, you got something on your mind, buddy? Yeah, buddy. Thurston, anything you want to talk about? Yeah. Thurston wants to talk about Star Wars.